davvero credi di volare, se davvero credi di poter uscirne fuori, di fuggire o coi tuoi piedi per chilometri, se spazi nella mente per viaggiare, se davvero credi di impazzire, se soltanto speri di riaprire gli occhi e credi di morire, un aquilone su tra gli alberi, impigliato tra i rami del cielo, ascolta questo cuore, questi occhi da bambino, asciuga questo volto, non senti il mio richiamo, raccogli questo sole, le stelle dal mio viso, solleva il tuo pensiero, conserva questo grido e salva quel cielo da ogni rimpianto, e salva quel fiore di rosso tormento, non senti la vita che ti sfugge di mano, se ti senti stanco di aspettare, se ti senti un ticchettio dell'universo al centro di un fondale o degli abissi più impensabili, un pesce dalle velenose spine, ho sognato di essere un bambino e correvo verso un prato verde, poi qualcosa mi ha svegliato e non riesco più a riprendermi, insomma stringo forte il mio cuscino, ascolta questo cuore, questi occhi da bambino, asciuga questo volto, non senti il mio richiamo, raccogli questo sole, le stelle dal mio viso, solleva il tuo pensiero, conserva questo grido,